immaginate una valle alpina. Pascoli, boschi, un torrente, le Dolomiti che spuntano oltre le prime vette. Anzi, se già la conoscete, immaginate la Val di Fiemme, un posto benedetto dalla natura, ma funestato dalla storia e dagli uomini, come l'Italia intera. Il 3 febbraio 1998, un aereo militare statunitense tranciò il cavo della funivia del Cermis. La cabina si schiantò al suolo e morirono 20 persone. Il 19 luglio 1985 i bacini della miniera di Prestavel ruppero gli argini, scaricando 160.000 metri cubi di fango sul villaggio di Stava. La valanga travolse e uccise 268 persone. Il 9 marzo 1976, a causa della rottura della fune portante, 42 persone morirono cadendo con la cabina della funivia del Cermis. Già la conoscete, immaginate la Val di Fiemme. Però la funivia no, non ve la dovete immaginare, perché nell'anno che ci interessa non c'era ancora. E c'era invece il trenino della Flaimstalbahn, che adesso non c'è più, e che saliva da Ora, nella Valle dell'Adige, fino a Predazzo. Anche il luogo preciso di questa storia non c'è più. O meglio c'è, ma si trova in fondo a un lago, che allora non c'era, e l'hanno fatto nascere con una diga negli anni 50, mentre al suo posto c'era Stramentizzo, una piccola frazione di Molina. Il 4 maggio 1945 i tedeschi in ritirata uccidono 36 persone nell'ultima strage nazista sul territorio italiano. La Seconda Guerra Mondiale in Italia è appena finita. Sono passati 5 giorni da quando il cadavere di Mussolini è stato appeso per i piedi a Piazzale Loreto. La guerra è finita, ma nelle province di Bolzano, Trento e Belluno ci sono ancora molti reparti tedeschi, perché quelle tre province, dopo l'armistizio dell'8 settembre, sono state annesse al Terzo Reich. A Predazzo c'è una scuola di guerra alpina delle Waffen-SS. La strada che risale la valle, in quei primi giorni di maggio, è percorsa spesso da convogli militari tedeschi, che hanno saputo dell'armistizio e tornano alla base per capire come comportarsi, sempre sul chi vive, per paura di un attacco dei banditen. Nero tra i cadaveri bianchi dell'ultima strage, ma tu chiedi alla storia chi è stato il primo a sparare, per trovare una colpa, per dare un motivo alla morte, chiedi invece alla storia di quanti hanno tirato a campare. I nazisti hanno bruciato le case, hanno cavato gli occhi, 35 cadaveri bianchi e una pecora nera, ma di un drago ti pare scontato il fuoco e l'artiglio, vuoi sapere chi ha tagliato i ponti d'oro al nemico. Si sa che i preti devono avere una risposta per tutto. Si sa che i preti non amano dare la benedizione del dubbio. Così ho trovato tra le carte del parroco un foglio volante. I cosiddetti partigiani, c'è scritto, hanno aperto le danze e il drago ha ballato il suo valzer. A chiamarli così sono tutti uguali. Rivolgere a tramviere, 5 anni di confino, perché sui tram di Milano spacciava la rivoluzione dentro un volantino. Il mando era operaio edile, poi l'hanno impiccato. Il re la faceva l'alpino e ha disertato. Bruno Frank lo stesso, ma dall'esercito tedesco, perché il padre aveva optato per Berlino. E quando hanno preso Tullio nei boschi in Balcanino, non chiesto la grazia, non ha chiesto perdono. Franz Kolman è fuggito dal carcere a Belluno. Filipin spare sia russo, ma di preciso non lo sa nessuno. C'è Tito il croato e ci sono pure due frati che non hanno il fucile ma lo stesso moriranno deportati. I cosiddetti partigiani, a chiamarli così, hanno lo stesso colore. Ma basta una goccia e sono arcobaleno. Basta uno sparo e nel bosco c'è persino un cadavere nero. L'autocolonna delle SS dicono avesse la bandiera bianca. Si fermano, si arrendono. Poi vedono un negro e pensano all'onta nazionale, la vergogna nera, le truppe coloniali francesi che occupano la Renania, leggenda di contadine bionde stuprate, razza ariana violata, bestie, selvaggi, cannibali arruolati per mangiare cadaveri, per ripulire le battaglie dall'odore di carogna. Vedono un negro e sparano, si spara. Tu chiedi alla storia chi è stato per primo. Io chiedo alla storia una storia. C'è un cadavere nero tra i cadaveri dell'ultima strage. Il CLN di Cavalese, lo stesso pomeriggio della strage, manda sul posto l'avvocato Morandini per stilare un elenco delle vittime e raccogliere le prime testimonianze. Tra i cadaveri c'è pure un ragazzo di colore, ma i partigiani non sembrano conoscerlo. C'è chi dice che sia un medico sudafricano, chi un afroamericano. La relazione di Morandini finisce tra le carte della commissione di indagine sui crimini di guerra, nominata dal Tribunale Militare Statunitense. Le carte della commissione finiscono in un armadio, insieme ad altri 694 fascicoli riguardanti i crimini nazifascisti. L'armadio finisce in uno sgabuzzino di Palazzo Cesi, a Roma, sede della Procura Militare Italiana. Nel 1994 il procuratore Intelisano finisce nello sgabuzzino, in cerca di documenti su Erich Priebke. Vede l'armadio, lo gira, perché è aleante contro il muro, lo apre. Il fascicolo sulla Val di Fiemme finisce sulla scrivania della Procura Militare di Verona il 5 luglio 1995. Tra le carte, il reperto A è la relazione scritta da Morandini 50 anni prima. Nell'elenco delle vittime è nominato un mulatto che portava le insegne dei prigionieri del campo di concentramento di Bolzano, Polizei und Durchgangslager Bozen, matricola 10.388. Sui guardiani del Polizei und Durchgangslager Bozen c'è un altro fascicolo sempre nell'armadio. Anche quello finisce sulla scrivania della Procura Militare di Verona, più o meno nello stesso periodo dell'altro. Tra i 7 imputati, l'unico ad aver già subito un processo è Albino Cologna, SS italiano, condannato a 30 anni nel 1946 e poi amnistiato nel 1960. Degli altri, uno è assolto per insufficienza di prove, uno è morto, un altro non è rintracciabile. Michel Seifert viene riconosciuto colpevole di 11 omicidi, con l'aggravante di orribili torture, e ristretto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 16 febbraio 2008, all'età di 84 anni. Thank you. cosa sei? Camerata miscia, in una cella del carcere di Capua Vetere. Un vecchio arrestato a Vancouver, tra le sue canne da pesca e le piante in giardino. O un nazista che sa di muffa, con le mani da assassino. Che cosa sei? Camerata miscia. Un altro nome tedesco per credersi immuni. O un monito maldestro per guardare il domani. Una toppa di carne per aggiustare il passato. O una porta riaperta che lo lascia passare. Che cosa sei? Camerata miscia? Un drago sconfitto o un morbo che vince? Un pretesto buono per raccontare una storia? O una medicina scaduta per curarci la memoria? Che cosa sei, camerata miscia? Un bicchiere di giustizia per chi non è morto di sete? Un colpevole incolpevole ritardo? Un fuggiasco che non fugge perché nessuno lo insegue? Una verità che non s'avvera perché ha sbagliato paese? Alla matricola 10.388 del poliziaio und Durchgangslager Bochum corrisponde il nome di Renato Marino, destinato al blocco B, non lontano dal blocco celle, il regno di Misha Seifert, Otto Sein e Albino Cologne, dove i prigionieri vengono torturati e uccisi con i cocci di bottiglia e l'acqua gelata, strangolati a mani nude, bastonati, legati alle recinzioni e lasciati morire di fame. Il nome Renato Marino nel registro del lager compare accanto ad altri, dei quali si specifica che sono stati catturati nella zona di Biel. E andando a scandagliare le testimonianze dei partigiani che combatterono in quella zona, il nome Renato Marino ricompare in relazione con una strana trasmissione radiofonica. Avevano una radio, Radio Baita si chiamava, e trasmetteva da Villa Schneider, il posto dove portavano i prigionieri per torturarli. Quando prendevano un partigiano, spesso lo facevano passare prima dallo scantinato e poi su, al piano di sopra, per farlo parlare alla radio e costringerlo a dire quel che pareva a loro. Era una messa in scena e anche piuttosto stupida, perché a Biella lo sapevano tutti che Radio Baita era dei nazisti e che di sicuro i partigiani parlavano così perché ce li avevano costretti. Però a suo modo un effetto ce l'aveva. Qualche giorno prima avevamo ascoltato la trasmissione con Barba di Ferro, il nostro commissario politico. Gliene avevano fatte dire di tutti i colori. Aveva perfino invitato alcuni di noi a presentarsi là, a Villa Schneider, per fare due chiacchiere, che tanto nessuno ci avrebbe fatto del male, anzi, ti offrivano pure le sigarette. E a queste stronzate è chiaro che nessuno ci credeva. Erano sberleffi, un modo di prenderci in giro. Però c'erano altre cose che ti facevano pensare, perché non tutte erano balle. Qualcosa di vero c'era. E allora ti chiedevi che cosa gli aveva detto davvero Barba di Ferro e cosa invece gli avevano scritto loro su un pezzetto di carta. E poi ti chiedevi quanto c'era voluto per farlo parlare a quel modo. Magari lo avevano piegato in fretta, perché quello che ti sembrava un gran combattente, in realtà sotto sotto non era poi così tanto convinto. Ti venivano dei dubbi che non avresti voluto. Magari avresti preferito un martire da vendicare. E invece così ti mettevi nei suoi panni e ti sentivi spezzato. Con tutto che era inverno, la guerra non finiva mai. C'erano i rastrellamenti e faceva un freddo cane. Quella sera doveva parlare Mercurio. Lo avevano annunciato, stavamo tutti quanti intorno alla radio. E già dalla sua voce abbiamo capito che non sarebbe andata come il solito. E poi lo sentimmo presentarsi come Renato Marino, un nome in codice che voleva dire tutto bene, i documenti importanti non me li hanno presi. E quando gli hanno chiesto perché uno come lui, che veniva dalla Somalia, combatteva a fianco dei colonialisti che avevano occupato la sua patria, disse che la patria non è un colore sulla mappa, che la patria è libertà e giustizia, che non può esserci patria dove c'è una dittatura. Lo interruppero. Rumore di sedie rovesciate, urla. Molti di noi avevano le lacrime agli occhi, ma non per le parole, che certo erano ben studiate, ma piuttosto per il fatto di ascoltare una voce ribelle, una voce che non si faceva mettere sotto. Se quelle cose ce le avesse scritte, non avrebbero avuto lo stesso effetto. C'è la stessa differenza che passa tra uno spartito di musica e il suono di una chitarra. Quella voce parlava dentro di noi, pizzicava le corde, le faceva vibrare per imitazione. Potevi sentirle, che ti gonfiavano il collo. Quella sera d'inverno eravamo tutti rinati. Eravamo tutti Renato Marino. Nel registro del carcere di Biella, Renato Marino risulta nato a Mahadei Wen, Somalia italiana, il 23 settembre 1923, da padre italiano e madre somala. Nel libro dei battesimi della missione cattolica di Mogadiscio risulta che il giorno 16 gennaio 1924 il padre Angelo Romano battezzò a Mahadei Wen il bambino Marincola Giorgio, di Giuseppe, nativo di Pizzo Calabria, e di Aschiro Hassan, della Kabila Bergadir, nato a Mahadei Wen il 23 settembre 1923 alle ore 2:30. Da amico, non da superiore, perché come superiore dovrei già darti ordini, e per il momento invece vorrei darti un consiglio. Sai bene che già da tempo, qui al comando, si parla della necessità di un tuo trasferimento, per via della relazione che intrattieni con la tua donna somala, e questa tua insistenza nel farla mangiare a tavola con te, dormire a casa tua, ed altre abitudini sconvenienti. Sai che ti ho sempre difeso contro tutti, dicendo di avere pazienza, che per un uomo della tua età è facile sentire il bisogno di avere una donna al suo fianco, dimenticando così le proprie responsabilità, le quali, nel caso di un militare italiano, escludono che si possa trattare con gli indigeni in maniera tanto liberale. Per questa gente l'Italia ha da essere il padre che li farà diventare finalmente adulti, e che per farlo ha bisogno dell'autorità, del braccio se necessario, e quell'autorità e quel braccio siamo noi soldati, che pertanto non possiamo indulgere in mollezze. Ma ora, tu fai finta di non sapere tutto questo, e anzi, disprezzando la fatica di chi ti ha tanto difeso, insisti nel tuo errore, battezzi il tuo figlio mulatto con il nome di tuo padre, lo riconosci, gli garantisci la cittadinanza italiana e contribuisci così a farne un infelice. Finirai trasferito e lui, se resterà qui in colonia, cresciuto dalla madre, non sarà mai all'altezza degli italiani veri, ma nemmeno lo apprezzeranno quelli della sua razza. E l'unico modo che avresti per farlo un po' più italiano sarebbe quello di portarlo via con te, come un animale da giardino zoologico, e di strapparlo alla madre da subito, cioè di farne un orfano, e per di più nei primi anni di vita, quando un bambino ha bisogno della madre come dell'aria che respira e nessun altro affetto può sostituire davvero quello di lei. Dunque a ripensarci, caro Marincola. Se lo vuoi, siamo ancora in tempo per modificare le carte e far risultare la madre come unico genitore del bambino. Facendo così eviteresti il trasferimento e magari a distanza potresti seguire lo stesso la crescita di tuo figlio, senza per questo trasformarlo in un essere sfortunato, senza radici e con una patria fasulla. Mi chiamo Isabella Marincola. Sono nata a Mogadiscio, in Somalia, nel 1925, anno terzo dell'era fascista. Mio fratello Giorgio è nato 2 anni prima di me, nel 1923, a Mahadei Wen, un presidio dell'esercito italiano 100 km a nord della capitale. Nostra madre, Askiro Hassan, era somala. Nostro padre, Giuseppe Marincola, un militare di carriera, fece una cosa inaudita per quell'epoca. Ci diede il suo cognome, i nomi dei suoi genitori e la cittadinanza italiana, nonostante fossimo figli meticci, nati fuori dal matrimonio, considerati come esseri umani di terza categoria. Eravamo ancora molto piccoli quando ci portò in Italia. Giorgio partì per primo e si stabilì a Pizzo Calabro, nella casa di mio zio e di sua moglie, che non potevano avere figli. Io rimasi a Mogadiscio, nello stesso quartiere dove i prigionieri d'Abissinia, costretti ai lavori forzati, costruivano una grande cattedrale in stile gotico normanno, a immagine e somiglianza del Duomo di Cefalù. Non l'avevano ancora terminata quando mio padre venne allontanato dalla Somalia e dalla sua donna. Un vecchio amico e compagno d'armi gli presentò allora una ragazza sarda, Elvira Floris, che cercava marito. Giuseppe la sposò e prese casa a Roma, in via dei Portoghesi. Poi scrisse a mia madre di affidarmi al primo gruppo di suore in partenza per Napoli, con il piroscafo postale della Compagnia Italiana Transatlantica. Fu così che arrivai nella mia nuova famiglia, come un pacco spedito da un paese lontano. Nella sua casa di Pizzo, intanto, mio fratello Giorgio viveva come un principino. Gli zii lo amavano moltissimo, lo coccolavano, perché per loro era come un figlio adottivo, un figlio che avevano desiderato e voluto. Passavamo l'estate insieme, in Calabria, ma il suo mondo era lontano dal mio quanto la luna. Giorgio suonava il pianoforte, sapeva nuotare, andava in giro per il paese con il suo gruppo di amici, una banda di ragazzini liberi. Io invece sono cresciuta in un ambiente gretto, buio, di crassa ignoranza. La mia nuova mammina era una vera carogna e mi picchiava con intenso piacere. Usava un elegante scudiscio, un courbache, e dopo avermi accarezzato per bene, le prendeva una tale stanchezza che doveva mettersi a letto con la borsa calda. Mio padre non c'era mai, sempre in missione all'estero, con l'esercito del re. Ancora 10 anni, non riuscivo a spiegarmi il colore della mia pelle. E quando ho chiesto a mio padre, la sua risposta è stata: perché sei nata a Mogadiscio, e lì il sole è forte. Allora mi sembrò un motivo più che valido. E quando ho visto scritto sulla pagella figlia di Giuseppe e di Askiro Hassan, ho chiesto a mio padre chi diavolo fosse questa Askiro, e lui mi rispose che era il nome di Elvira Floris, tradotto in somalo. E allora non capivo perché poi, sul tram e per strada, quando chiedevano alla mia mammina Elvira se fossi figlia sua, lei abbassava la voce e diceva: ma sei matta? Non l'hai visto com'è nera? Un giorno d'estate rimasi in casa da sola con mia sorella Rita, figlia naturale di mio padre e di Elvira Floris. Ho sempre pensato che lei si adattasse meglio di me a questo mondo, che tutto le fosse più congeniale, e allora le chiesi se sapesse qualcosa di più a proposito della mia pelle. Lei mi guardò con l'aria furbetta di chi la sa lunga. Mi fece segno di seguirla. Entrò in uno sgabuzzino e cominciò a rovistare in una grande scatola. Dopo un'affannosa ricerca, mi mostrò le foto di una giovane donna, nerissima, con i capelli a mo' di ombrellifera. Ecco, questa è tua madre. Mi resi conto allora di essere figlia di una diavolessa. Nella casa di Pizzo Calabro, il piccolo Giorgio visse come un principino. Gli zii lo amavano moltissimo e lo coccolavano come un figlio. Grazie a loro imparò a suonare il pianoforte, a nuotare in mare aperto, a non sentirsi a disagio in mezzo agli altri bambini. A scuola, invece, gli insegnavano a marciare in fila ternaria nella formazione che fu gloria delle legioni romane. Imparava a risolvere problemi di matematica dove quattro comunisti, perché hanno poca voglia di lavorare, guadagnano al giorno lire 8 e quattro fascisti lire 15 al giorno. Chi guadagna di più? Libro e Moschetto, fascista perfetto. Oggi interroghiamo sul libro del fascista, il paragrafo che avete studiato. Che cosa devo sapere sulla razza? Allora Bergonzi, che cosa si intende per razza? La razza è una massa di uomini simili per caratteri fisici e psichici che furono ereditati e continueranno a ereditarsi. Molto bene, le razze sono tutte uguali? No, vi sono tra le razze differenze fisiche e spirituali. Spirituali, a quale razza appartieni? Io appartengo alla razza ariana. Perché dici di appartenere alla razza ariana? Perché la razza italiana è ariana. Molto bene. E sentiamo, come si chiama l'individuo nato da genitori di razze diverse? L'individuo nato da genitori di razza diversa, dei quali uno di colore, si chiama meticcio. E il meticcio è un individuo fisicamente e moralmente inferiore. Quindi, sì? Ogni individuo che procrea un meticcio offende la dignità della razza e condanna il proprio figlio a uno stato di inferiorità fisiologica, morale e sociale. Bene, andiamo avanti. Allora, qual è il primo dovere dell'italiano che vive nei territori dell'impero? Primo dovere dell'italiano che vive nei territori dell'impero è quello di mantenere il prestigio della razza. Esiste un delitto contro il prestigio della razza? Sì. Viene commesso un delitto contro la razza tutte le volte che il puro sangue della nostra razza, illuminatrice del mondo col pensiero e con le opere, è mischiato, inquinato e contaminato. E poi? E tutte le volte che il prestigio di questa razza superiore e dominatrice è avvilito per mancanza di quella dignità, di quella fierezza di cui ogni italiano deve dare esempio ovunque, ma in modo speciale tra genti di diverso sangue ed inferiore civiltà. Ed inferiore civiltà. Molto bene. Nel 1933, alla morte dello zio, Giorgio raggiunge la famiglia del padre a Roma, nella borgata di Casal Bertone, in un grande palazzo con tante scale e un cortile vasto come una prateria. Una casa grande, senza riscaldamento, quattro stanze e tre sgabuzzini. In quello stesso anno, a settembre, si iscrive al primo ginnasio del liceo Umberto I, sezione H. Nei primi due anni di liceo, Giorgio conosce Pilo Albertelli. È l'anno scolastico 1938-39. Albertelli ha la cattedra di storia e filosofia e non è un professore qualunque. Thank you. mattina di sole, Pilo Albertelli legge un passo di Kant. Due cose riempono l'animo di meraviglia e riverenza. Quanto più spesso e a lungo il pensiero vi si ferma su. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. La porta dell'aula si apre di colpo, sulla soglia due sbirri dell'ovra. Professore, deve venire con noi, abbiamo da farle delle domande. Pilo Albertelli non si scompone, non chiude nemmeno il libro. Li guarda come cani che abbaiano in chiesa. Aspettatemi fuori, devo finire la lezione. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. I due restano là, folgorati e muti. Forse si scambiano sottovoce un consulto. Sono abituati a osservare, sbirciare, spiare. Sono gli occhi del duce che scrutano l'Italia. E ora una classe intera li fissa. Interrompere l'attività scolastica non sadisce la disciplina fascista. Subire l'affronto di un ribelle è un'offesa al prestigio della divisa. E allora, che fare? Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Fu domandato un sapiente quale deve essere la prima virtù del bambino. Rispose l'obbedienza, e la seconda l'obbedienza, e la terza l'obbedienza. I due sbirri l'hanno imparato a memoria. Questo grazioso racconto stava sul libro di testo di scuola. L'hanno imparato e solo quello sa fare. Obbedire, obbedire, obbedire. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Parlare di filosofia, quello che avete visto vale come 100 lezioni. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Nel 1940 l'Italia è entrata in guerra, hanno chiuso le scuole prima del tempo e a noi ci hanno promosso senza fare la maturità perché non si potevano spostare le commissioni su e giù per il paese. Io di sicuro fui contento perché non mandava proprio di studiare, poi però non mi andava nemmeno di fare il militare. E allora ho scelto medicina, come Giorgio Marincola, che invece l'aveva in testa da sempre di fare il medico, per poi tornare in Somalia e lavorare in ospedale. Per un paio d'anni siamo riusciti a dare gli esami. Poi nell'estate del 43 sono cominciati i bombardamenti e chi poteva ha fatto le valigie ed è sfollato fuori città. Giorgio è partito quasi subito perché già nella prima incursione la sua casa aveva subito dei danni. Io invece sono rimasto, ho visto i tedeschi entrare in città e ho ripreso i contatti col professor Albertelli che stava nel partito d'azione. Nel febbraio 44 è uscito il bando Graziani, che chiamava alle armi la nostra leva, e per chi non si presentava c'era la pena di morte. Allora me ne sono andato anch'io, mi sono nascosto da Giorgio a Montorio Romano, insieme ad un altro compagno del ginnasio, Corrado Giove. Quando siamo tornati a Roma, dopo neanche due settimane la banda Koch ha arrestato Pilo Albertelli, per colpa di un Giuda, che glielo ha portato tenendolo a braccetto. Il professore aveva in tasca un elenco di nomi, gente che si doveva infiltrare nella polizia e che invece la polizia se l'è ritrovata sotto casa, all'alba, come da copione. Quando uno sente una suonata di campanello alle 5 del mattino, o sono i carabinieri o è la polizia, è matematico. E così ne arrestarono 11, compreso l'amico nostro, Corrado Giove. A me mi chiamò il padre per avvertirmi che era successa sta faccenda. Nel frattempo anche Giorgio era stato informato. Ci siamo incontrati a Porta Maggiore, siamo andati in casa di Corrado. Giorgio voleva venire su con me, ma io gli dissi di no, perché se c'era qualcuno lui era troppo riconoscibile, perché era nero, e un nero a quel tempo era difficile trovarlo a Roma. E infatti era incredibile che proprio a uno come lui fosse venuto in mente di fare la vita clandestina, rischiando di farsi beccare ogni volta che andava in giro. Per cui Giorgio rimase di guardia al portone e io andai su, poi venne pure lui e cercammo la roba compromettente, perché sapevamo che Corrado c'aveva i giornali, Giustizia e Libertà, c'aveva i volantini e sapevamo che li teneva nascosti dietro la libreria. Difatti l'abbiamo trovati, l'abbiamo buttati dentro un secchio e l'abbiamo bruciati. Poi siamo dovuti andare via pure noi. Io sono finito in un altro quartiere e Giorgio dalle parti di Viterbo, dove ci stavano i partigiani della Giuseppe Pieronti. Corrado invece è rimasto in carcere per tutto il mese di marzo a Regina Coeli ed era lì pure il 24, il giorno delle Fosse Ardeatine. Dice di aver incontrato Albertelli diverse volte durante l'ora d'aria e che si vedeva bene quanto l'avevano torturato, tanto che poi negli ultimi giorni era riuscito a farsi ricoverare in infermeria e molti pensavano per questo che si fosse salvato. E invece lo andarono a prendere anche in infermeria. Giorno di pioggia alle Fosse, di Lia Albertelli. Ucciso qui dentro, ammucchiati in una di queste fosse, coperti di terra. Le grotte sono tanto buie e profonde. Dove siete? Dove vanno lasciati? Se ne sono andati e non vi hanno neppure guardato. La terra fatta di sangue e i loro occhi di pietra. Camminiamo a tentoni sotto le volte pesanti. L'aria grassa riempie la bocca e smorza il respiro. Ci sorreggiamo una all'altra tenendoci per mano. Siamo poche spose e con noi è una sorella e una madre. In fondo a una grotta s'alza un cumulo alto. Ci arrampichiamo e la terra si apre sotto i nostri passi. Dalle zolle scomposte ci investe a folate l'alito greve, sempre più forte. Una raccoglie una ciocca di capelli aggrumata. L'urlo suo ci butta per terra. Sono lì sotto e noi li calpestiamo coi piedi, i padri dei nostri figli. Thank you. Fuochi accesi nella notte sul dorso della montagna. L'aereo scende verso il campo d'atterraggio. Le orecchie si chiudono. Il cuore si apre. Fuochi accesi nei ricordi, sul dorso della memoria. La chiesa gremita per i funerali del professore, alla faccia delle camicie nere. Roma liberata in un giorno di sole e la decisione di proseguire la lotta oltre la linea gotica di una vita normale. Fuochi accesi nella notte sul dorso dei ricordi. Il colloquio di arruolamento nelle special operations e i dubbi dell'ufficiale inglese per la tua pelle così particolare. Ma a presentarsi sono in pochi e alla fine anche un nero può andare. Fuochi accesi nei ricordi, sul dorso della memoria. L'addestramento in Puglia, 23 giorni in tutto, e due soltanto per capire i segreti del paracadute che ti farà volare. Un nuovo nome, Mercurio, e il grado di tenente nella missione Pamo, destinazione Biella. Della montagna. Le orecchie si chiudono. Il portellone si apre. Lancio coi paracadute avvenne dopo la mezzanotte del 20 agosto nei pressi di Zimone, a sud di Biella. Ad accoglierci la brigata Cattaneo della settima divisione Giustizia e Libertà. La prima notte dormimmo al castello di Mongivetto e il mattino dopo ci preoccupammo del materiale lanciato assieme al gruppo e consistente in armi, munizioni ed esplosivi, una radiotrasmittente, oltre ai nostri bagagli. Ma viai con Mercurio per la stradetta di campagna che avevamo percorso la notte per andare al castello. In 5 minuti sboccammo sulla radura, dove la sera prima erano accesi i fuochi. Era il campo del nostro atterraggio. Vedevo bene la macchia bianca dei paracadute, ma quando fummo sul posto non trovai che un container. Tutto il resto era soltanto corde e seta. Dopo inutili e affannose ricerche, un partigiano della Cattaneo venne ad avvisarmi che in un casolare vicino alcuni partigiani garibaldini del distaccamento Bixio stavano aprendo un collo lanciato con tutta evidenza durante la notte. Raggiungemmo allora la cascina per chiedere la restituzione del materiale. I garibaldini erano armati di Sten nuovissimi, ancora unti di grasso. Spiegammo loro che le armi e il resto appartenevano alla missione Bamon, arrivata quella stessa notte, ma fummo cacciati con violenza da 2 o 3 energumeni che molto a fatica si potrebbero dire partigiani. Nel pomeriggio seguente ci recammo di nuovo alla sede del distaccamento garibaldino, ma non trovammo né i partigiani né il materiale. Tornati al castello di Mongivetto, lo scoprimmo circondato da una cinquantina di garibaldini armati di Sten, tutti senza sicura e pronti per il fuoco. Come condizione per poter trattare, ottenni dai loro capi che ponessero fine all'accerchiamento e solo allora i membri della missione riuscirono a chiarirsi con il commissario Renati e lo convinsero a consegnare le armi, gli esplosivi, l'apparecchio radio e quanto altro fosse in mano loro. Capitano inglese Jim Bell riguardo alla sua permanenza nella zona di Biella. La brigata Cattaneo si è resa responsabile di continui furti di armi e materiali attribuiti poi ai garibaldini. Era questa la brigata meglio armata della zona, sebbene incapace di usare le armi. Il loro commissario era incompetente come capo militare e in una circostanza non seppe distinguere, a una distanza di 100 yard, gli uomini della missione dai nemici. Diede l'ordine di sparare, per fortuna senza colpire nessuno. Giorgio Marincola fu arrestato nel gennaio 1945 durante il rastrellamento della Serra, la zona collinare a sud-ovest di Biella. Tradotto in carcere, Marincola dà come generalità il nome falso di Renato Marino, ma la data ed il luogo di nascita, nell'atto di consegna del detenuto, sono i suoi. Dopo aver parlato a Radio Baita, lo trasferiscono a Torino nel carcere delle Nuove e di lì al Polizei und Durchgangslager di Bolzano, destinato ai lavori forzati per la ricostruzione della ferrovia del Brennero. Il lager di Bolzano viene consegnato alla Croce Rossa Internazionale il 30 aprile 1945. Renato Marino, cioè il tenente Mercurio, cioè Giorgio Marincola, rifiuta di salire su un camion diretto in Svizzera. Decide invece, insieme a due compagni di prigionia, di dirigersi a piedi verso sud. Ricordi, Renato, quando estasiati tendevamo le orecchie alla voce del fiume? Vittorio, mi dicesti allora, se non siamo morti là dentro, non moriremo mai più. Ci mettemmo in cammino. Raggiungere la famiglia, il primo pensiero, ma soltanto per un breve istante, quasi fossero due quelli che in te parlavano. Poter avere un fucile. La notte ci accolse un nostro vecchio compagno di prigionia, padre De Gasperi, guardiano del convento dei Francescani. Povero vecchio, al vederci non sapeva credere alle sue orecchie. Era stato liberato dal lager pochi giorni prima, in considerazione della sua età. Fossi tu a svegliarmi il mattino seguente seduto sul letto. Vittorio, mi dicesti, non ti sembra ignobile finirla così? Ti guardai perplesso, non capivo. Raus, dicesti disegnando nell'aria la frusta che ci aveva martoriato la carne per tanto tempo, che tanti compagni ci aveva ucciso. Pochi secondi ed ero pronto anch'io. Partimmo la sera stessa, dopo che un altro compagno di prigionia ci aveva scritto un biglietto di presentazione per il comandante della brigata Cesare Battisti tra Stramentizzo e Molina di Fiemme. Raccoglie i cocci dell'eroe. Chi gli rammenda i calzini? Chi resta mentre lui va verso la fine che ha scelto? Isabella Marincola, dopo la morte di Giorgio, l'hanno cacciata di casa. O lei o me, ha detto Elvira Floris a suo padre, sfibrato da 6 anni nelle prigioni di Gondar. E la decisione è arrivata per sfinimento. Chi te lo ha fatto fare, tenente Mercurio? Chi te lo ha fatto fare per quest'Italia? Ma forse è proprio quest'Italia che te lo ha fatto fare. Quest'Italia che già annusavi nell'aria, che già sentivi e che hai preferito non vedere. Isabella Marincola, per guadagnarsi da vivere, ha fatto la modella, poi l'attrice. Nel film di De Sanctis, Riso Amaro, c'è una strana mondina con la pelle nera. Dice poche battute, poi scompare. Thank you. cosa si agita all'ombra dell'eroe? Chi si nasconde dietro al suo monumento? Cosa resta sfocato nella foto, mosso dai suoi frenetici spostamenti? Dalla Somalia a Pizzo Calabro, poi a Roma. E appena liberata Roma a Biella, poi a Bolzano. E appena liberato il lager in Val di Fiemme. E appena liberata l'Italia, morire. Forse fu quella la tua liberazione. Isabella Marincola è tornata in Somalia, ha avuto un figlio, è scappata da Mogadiscio, è di nuovo qui. Ha dormito in stazione prima di trovarsi una casa. Suo figlio si è messo in fila per guadagnarsi il permesso di soggiornare in Italia. Ti hanno insegnato che un meticcio non è una persona intera, che è un essere ignobile, un fiore appassito, un morto vivente, un'offesa. Forse per questo sei arrivato in fondo, sordo a qualunque liberazione. Giorgio Marincola, nato in Somalia, pelle nera, cittadinanza italiana, razza partigiana.